Ăla d'argento che brilli nel cielo, forse il mio amore morirà di nostalgia. O quanti ricordi fai vivere tu della d'argento che brilli lassù. Notte d'incanto che vuoto nel cuore, due cuori amanti pieni di malinconia, un bacio fremente e poi nulla più. Stella d'argento, piange, piange tu. Ti guardo, ripeto il tuo viso, i tuoi occhi ricordo ancora. Io le dissi ritorna domani, ma non tornò mai più da me. Stella d'argento che brilli nel cielo, forse il mio amore d'argento, piange, piange tu. Notte d'incanto che vuoto nel cuore, due cuori amanti pieni di malinconia, il mio gran tormento lo sai solo tu. Se ti guardo rivedo il tuo viso, i tuoi occhi ricordo ancora. Io le dissi ritorna domani, ma non tornò mai più da me. Stella d'argento che brilli nel cielo, forse il mio amore di nostalgia, il mio gran tormento.